da voi lì in città tieni presente che ci sono sempre uno o due gradi in più di quello che si può fare in campagna. Qua ogni mattina guardo la grondaia e la grondaia sta sempre a gocciolare dall'umido che scende la notte. Quindi è così, che ci vuoi fare? Beh sì, è voluta la bicicletta, pedalava! No, no, ma come aria non c'è paragone alla città, neanche, è tutto un altro pianeta. Già, hai cambiato sì il microfono, però per me va peggio, perché tendi a strappare, troppo forte. È solo da abbassare, guarda così. Dai un altro pochino, dai. Amici? Beh, però fammela sentire. Dai, parla, chiacchiera, modula. Cosa ti stavo dicendo? Anche qua io sono in periferia, non ti credere che sia in città, già lo sai dove abito, quindi è già in zona inoltrata. Sì, esagerato, periferia, già, dai, città è periferia. Montevurru, la zona mia, Montevurru, Batimannitta. Sì, ma la campagna è sopra e neanche tanta, veramente per trovarla, dopo le costruzioni devi andare proprio a Montevurru per il proprio, se no non ce n'è, sono palazzi, palazzoni anche. Io ce l'hai di campagna, tu non lo sai, ma io già lo so. Se tu vai dalla parte dietro dove c'era una isola, lì tutto campagna. Se ne senti cacciatori cacciando. Quelli perché sparano. Però già la conosco la zona lì, a Puglia, è la seconda volta che ci sono venuto, proprio di fronte a te anche a trovare il mio caro amico. Ero sempre lì, infatti mi chiamava, allora, non sei più vivo? No, stavo lavorando, dai, ma passa, dai, ci facciamo una chiacchierata. Ci manca, ecco, la persona, ti dirò, è stato un colpo duro, perché era veramente un amico per me. Io sono andato anche a vedere la casa sua, poverino. Vabbè, anche quando si trovava con me, tu immagina che c'è solo una ringhiera che ci divideva da dove ci fossi macchina io al suo cortile. Immaginati tu, lui si affacciava e parlavamo, non facevamo neanche mezz'ora, un'ora a parlare. Sì, ma io sono salito anche su una terrazza per me, per mettere un dipolo, perché anche lì c'erano dei problemi sempre, c'erano tutte queste antenne scassate, senza cosoni, senza con le staffe, tutte messe in quel modo, mezzo staccate, e poi si lamentavano magari che c'erano dei problemi. Se non ricordo male siamo dovuti entrare da una finestra, perché no, di lì non si poteva entrare in altro modo. Il mappiatore me lo ricordo sempre sul tetto, sempre sul tetto, lo vedevo dalla finestra di casa benissimo, tutto ciò che c'era di fronte. Tu immaginati, proprio il palazzo di fronte è quello mio, dove abito io. Sì, beh, se volete io vedevo la tua antenna anche quando ero salito, è sempre in silenzio perché c'era una che non poteva vedere, che era all'ultimo piano, arrivato a quel piano, piano piano, qua piano piano, ta ta ta ta ta. Non mai parlare di quello, per carità. Siamo malati in quel paese, ogni volta si affacciava, lei mi disturba il telefono, ha fatto volantini, li ha messi sotto i portoni, dove le scopposte, c'è un signore che disturba la linea telefonica, questo e qua, non so se c'era secondo il controllo, però anche a me mi diceva cosa. Quando incocio l'ignoranza, sono usciti quei televisori disgraziati, che era qualcosa di micidiale, non so se vi conoscevi Rex o Zanussi che fossero, che per un qualche mistero questi imbecilli non avevano messo i filtri lì nella parte audio, e quindi entrava sparato il segnale di qualunque cosa dentro il modulatore audio, quindi non era una cosa a volume basso, un disturbo, no, volume tutto, era tutto volume, perché scavalcava anche i potenziometri questa cosa. E praticamente uno c'aveva il televisore a tutto volume con la voce magari di qualche CB o di qualcuno in VHF anche, c'era qualcosa di micidiale, figurati la notte. Cavagaba, vabbè. Sì, me lo posso immaginare, Infatti a Torre gli avevo telefonato e ho detto, ma chi è questo qua, dall'ultimo piano che si mette a gridare, mi spenga quel bollettino. La Rosa Rosa se l'ha firmata, c'è qualcuno di Amores che disturba i telefoni, e avevamo uno di questi telefoni marocchini, di quei cordless che venivano i marocchini prima, te lo ricordo. Tra l'altro i primi erano proprio in 27, non so se tu ricordi, facevano con l'antenna lunga lunga, dei cartucci, guarda, tra l'altro erano anche vietati, giusto per mettere i puntini su lì. E poi erano delle cose proprio di bassissima macelleria. E c'era pure il coraggio di lamentarsi, se trovava a me diceva, chi chiami da scorare? Io chiami. Che cosa ne dice 4? Non era fusibile, era già. Buonasera. No, temporale, sì, il figlio di fusibile, temporale. Sì, ma la volta che li ha chiamati si ha preso la multa, già lo sai, si sono andati da Torre, poi sono andati da lui, l'ha controllato l'antenna, ci aveva amplificato e hanno messo 500.000 lire di multa. Sì, già lo so, ma era fuori testa cosa, cosa aveva detto a lui. Nonostante che era laureato, ma era, non ci stava con la testa. Ciao Gianfra. Era valendo, lo teneva tutti in giro. Ciao Giulio mio. Avevamo intenzione, adesso Natalino, adesso è andato a mangiare come al solito. Natalino che ha chiamato il suo amico per farti togliere la corrente e costringerti a entrare. Scusi, interrompivi queste partite. E invece non c'è riuscito, non te l'hanno attaccata. E beh giù, per forza, voleva usare la batteria della macchina, ha detto che lui la guardava lo stesso. Aspetta, sì, li metto in sedia, li metto e faccio 220 volt. Le ottate di batteria, li metto tutte in serie e faccio 220 volt e funziona lo stesso. E poi ho anche il televisore a batteria, per cui piccolino ma ce l'ho. Vabbè, dai. Comunque adesso ho visto, adesso me l'avete attaccato, il primo tempo è finito però, è per quello che avete attaccato, ma fra un po' riprende, fra un po' c'è il secondo tempo. Ciao Natalia. Ciao Giù, sono entrato a salutare, ero già in ascolto perché devo fare quella cosa lì, mi sono entrato perché ti ho sentito. Ah, è ok, grazie Natalia, mi fa piacere. Certamente sì, ho capito quello che devi fare. Beh, a orario si fanno queste cose, giustamente così. Beh, quando uno si vuole bene, rispetta tutte le regole. Avanti già. E io ho detto, ieri soddisfatto c'è stata la partita. E certo che sì, ha vinto. Quando si vince è sempre un'allegria, no? Perlomeno. Adesso vedremo la prossima. Cosa succede, ma il difficile arriva a strada facendo, non è, man mano che passano le partite è sempre più difficile. Saremo a vedere quando incontriamo le squadre come si deve, sempre che arriviamo ad incontrare, se non usciamo prima, chi lo sa. Dai Gianfra, fra un po' ci sarà il ciclismo, così anche tu sarai ben contento. Ma se ci riesco io vado a vedere lì in persona. Ho anche già preso le ferie qui, quindi mi sono attrezzato. In qualche modo qualche cosa devo vedere perché sono anni che non ci riesco. Salta un pegno e l'altro, mi saltano sempre le cose. Comunque, vabbè, io come annunciato prima vi devo salutare. Ciao Giulio, e comportati bene, perché io con Natalino ho finito gli argomenti, quindi non sapevo più di cosa parlare. Quindi dacci una mano, se no andiamo a finire male qua. E niente, ci sentiamo, dai ragazzi, buon proseguimento e buona serata. E a dopo, quando inizia il secondo tempo. No, allora guarda, un argomento di discussione te lo metto subito io in evidenza, perché mi interessa un'informazione, visto che tu hai la stessa macchina che ho io. Tu in realtà il primo tagliando, a quanti chilometri l'hai fatto? Così, per essere informati, perché io ho telefonato alla Ford e mi hanno detto se ha percorso 30.000 km è da fare il tagliando, se non li ha percorsi dopo 2 anni. Confermi che anche a te hanno detto così? Guarda, io sapevo a 20.000 chilometri in realtà, però tieni presente una cosa, Giulio, che io sono capitato in piena pandemia e li avevo anch'io chiamati e hanno detto, no, guardi, ne faccia quanti ne vuole, perché è tanto, in ogni caso noi siamo proprio chiusi, non facciamo tagliandi in quel periodo, quindi me l'hanno fatto molto successivamente, avrà avuto, non so, 24-25 mila chilometri, e comunque poi mi hanno dato la macchina anche sigillata e con i sigilli, come era stata sanificata, perché ancora comunque questa cosa c'era sempre. E niente, quindi l'informazione che ti posso dare è in ogni caso sbagliata, perché anch'io ci ho avuto un grosso rinvio comunque. Io ho telefonato da alcuni giorni fa proprio per sapere quello, perché la macchina ha già 12.000 km. Vabbè, prima nelle macchine ricche era diverso, di vecchio tipo, là. Poi nelle macchine moderne è tutto diverso lo discorso. E appunto ho telefonato, loro hanno risposto così, dice, si ha percorso già 30.000 km, va bene, possiamo anche fare tagliando, soprattutto per questioni di olio, eccetera, eccetera. Se invece non li ha percorsi, dopo 2 anni, anche se non li ha percorsi 30.000 km, dopo 2 anni, così mi hanno risposto, cosa vuol dire, boh, 2 anni ancora non ci sono, 2 anni fa a ottobre, se ricordo bene, per cui vedremo allora più di là. E così, vai, riprende per girare. Sì, riprendo, ma scappo via, se no poi non riesco neanche a cenare. Comunque giù, tarda il più possibile, perché il tagliando è una grossa botta, perché c'è un trick and track, per il primo tagliando mi hanno chiesto roba di quanto erano, 380 euro, una cosa pazzesca, e ho detto, oh Giovinotti, ma sicuri siete? Perché sennò qua io non c'entro più piede. E mi hanno detto, allora ma se no vabbè, già non si preoccupi, facciamo un bello sconto, eccetera, eccetera. Però se non glielo avrei detto la cifra era quella, cavolo, non mi fa bene, capito? Comunque, adesso ho fatto questo benedetto tagliando e adesso se mi pare le apporterò al prossimo, se no la do a qualche altra, la lascio un'occhiata. E buono, da sì, che tanto io le macchine a 100-120.000 km le faccio fuori subito, no, non le tengo. Quindi non mi metto problemi, qualunque cosa vogliamo fare loro. D'accordo, scappo via, riprendi Gianni, ciao a tutti. Ciao Gianfra, ciao Moncoletti, dai Giulio, saluta, poi ti dico anche. Ok, ciao Gianfra, grazie dell'informazione. Ci sentiamo le prossime. Avanti già. Ti voglio dire una cosa, allora io il primo tagliando ce l'avevo gratuito dalla macchina, poi a 15.000 km ho fatto il tagliando sempre alla Fiat, e praticamente ho pagato 350 euro. Adesso ho fatto il terzo tagliando da Franco, che ha fatto le stesse cose uguali, identiche alla Fiat, mi ha fatto pagare 150 euro. Ma guarda, io infatti farò così, io non ci andrò proprio alla Ford, perché alla Ford sono per conto mio troppo cari, per cui non, siccome soldi da buttare non ne ha nessuno, e tanto meno io, pertanto vado da Franco, che io mi seguo già da oltre 40 anni, da Franco mi sono sempre trovato molto bene. Per cui non vedo la ragione per quale motivo io debba andare alla Ford, anche se la Ford magari tu mi dirai, forse scade la garanzia. Ma intanto quando dovesse succedere qualche guaio, non so, che so io, un braccetto, una cosa o qualsiasi componente della macchina stessa, quelli lì ti fanno pagare il lucro della testa, sì, che tanto fare, vai al Franco e paghi sempre molto ma molto meno, te la riparo ugualmente, che problemi ci sono? No, perché so che quando vai in mano ad un altro meccanico, prende la garanzia o Gianni? Ma io la garanzia praticamente ce l'ho già 3 anni, era di 2 anni la garanzia, quindi io l'ho già persa, non me ne frega nulla. Niente, l'ho portata sempre io, anche io da Franco, anche l'Astra l'ha portato lì dopo che sono andato alla concessionaria, mi hanno sparato 500 euro per un tagliando, l'ho portato sempre, ma le concessionarie sono sempre così, ti fanno pagare l'occhio dalla testa e mettono le stesse cose, perché l'olio, i filtri, me li ha cambiati anche Franco, tutti i filtri, l'olio, quello che c'era da fare, il filtro del gas lo cambio a parte, ogni 20.000 km lo cambio da Gavino, quello che fa gli impianti di gas, pago una cassata anche lì, 30 euro, mi fa tutto quanto, mi pulisce tutto quanto, mi mette il filtro nuovo e via. Cioè uno deve guardare anche dove si risparmia, la cazzo, cioè alla Fiat non puoi entrare, mi hanno fatto parlare che mi si è rotto l'altro vetro a me, che era tutto in plastica, ma nel senso il vetro di corpo meno male non si è spaccato, il vetro della parte della guida. Mi hanno fatto pagare 200 euro per quell'alza al vetro, perché non originale non si trovava, non ce n'era, quindi ho dovuto comprare quello originale, 200 euro per un braccetto che si era sgranato, una rotellina, un ingranaggio che c'ha tutte le dentini, si era sgranato e è sceso di colpo. Sì, beh certo, è così, non ci si può andare in queste concessionarie perché sono troppo cari già, per non dire un'altra parola offensiva, l'ha preso, non la dico ma l'ha preso, e cioè sto pensando madre per conto mia, però non lo dico, l'ha preso e basta, ecco quella parola che sto pensando, ma non la dico, per cui vede bene, non è possibile, guarda, che si possa uno trattare in questa maniera, dopo che tu gli compri una macchina che costa 25.000 euro circa, no, guarda, non ci penso più. Non ci penso più assolutamente. E così sono dappertutto, non è a dire che solamente lì alla Fiat oppure alla Ford, in tutti i posti loro sì, ma picchiano forte. Ti sembra 380 euro per fare cosa? Primo tagliando, ma quando mai? 380 euro per sostituire l'olio, per cambiare questi filtri, eccetera, eccetera, e basta, niente di più. Non è che stai facendo una catena di distribuzione, non stai facendo niente, cosa si fa da 80-90.000 km? E non puoi spendere tutti quei soldi per fare un cambio d'olio. È vergognoso veramente da parte di loro, guarda. Ecco, io la penso così già. No, a me me l'hanno dato il primo tagliello, me l'hanno dato gratuito, perché ho detto, non mi regalate niente per la macchina, dice, che cosa vuole? Lei ha detto, almeno il primo tagliello, e detto, vabbè, dai, il primo tagliello glielo facciamo gratis, e me l'hanno fatto gratis. E non ho pagato nulla il primo tagliello, ho detto, ma il secondo tagliello dovrò pagare. Adesso sono andato, mi sono rifatto del primo e del secondo, mi hanno fatto pagare tutti in pari. Adesso che io sono per far lavorare l'artigiano, non l'industriale, primo. E che poi quando uno ha un meccanico di fiducia con questo Franco, ripeto, che è un gran bel meccanico, tra l'altro anche che sa lavorare, e tra l'altro rispetto agli altri si fa anche pagare, non dico di no, che Franco rispetto agli altri si fa anche pagare qualcosina in più, però è qualcosina che ti va bene, perché? Perché sai che ti fa un buon lavoro, perché Franco è un meccanico aggiornatissimo, perché tutte le volte che c'è qualche come si dice, corso di aggiornamento per le varie tipi di macchine, lui va e fa l'aggiornamento, va in continente e fa l'aggiornamento, per cui è per quello che ti sto dicendo, Franco è preparatissimo per quel motivo lì, a differenza magari quell'altro che c'è vicino, che è quello lì, l'unico aggiornamento che fa è la barca, ci dà all'angolo oppure all'angolo di via Pietro Micca, quello fa con l'aggiornamento lì. Fa bene, giù ti saluto che dovevo prendere l'aereo, che sono già in ritardo, non mi ero accorto che era così tardi. Ti saluto, ti auguro una buona serata, mi dispiace che non mi posso trattenere, ma devo andare, dai, che sei da lavoro adesso, devo andare a prendere. Ci sentiamo, giù. Ok, ciao già, ci sentiamo alle prossime. Ciao, grazie per la chiacchierata, ciao. Giulio, bene, devo cambiare il, devo pulire il bambino grande, quello di 40 anni, ha fatto la cocco. Mamma mia, e poi c'è stata persona io, prima di cena o prima di pranzo. E ognuno, adesso ci manca solamente il Giulio, sono a posto. Infatti, ci manca solo Giulio, e gli va a posto la sera, allora sì che abbiamo fatto l'affare. Come da vita, Adesso lo cambio, dai, che sei fatta per adesso la cocco. Va bene, ok. Ci vediamo dopo, tanto dove la butto la monde. Sì, la buttare anche la monde, sta scendere il cane a fare la pipì alle 8:30. Così almeno c'ho l'anguria dentro, che sai dove diventa l'anguria dentro le buste, solo che si bucano da sole, là ci danno il coso, è allucinante, vedi? No. Lo bucano dentro le, con le buste, tu buca la busta e cresce tutto in terra, non tu mettere le due buste. Cosa Antone? Che ho detto, dopo ce l'ho buttata l'anguria, perché me ne è bucato la busta in pratica, il succomi. Il zucchero che quell'acido che c'è l'anguria, buca la plastica, buca. Caspita, io vabbè, adesso ti lascio o con Giulio o con Daniele, se sono più lo stesso. Hola. No, le sto facendo anche la pasta per loro. La faccio per tutti la pasta, forse mi fa la pasta per tutti e due. Vabbè, già va bene, no? Che sono qua, non ti preoccupare. Ok, a dopo, ciao. E io, ciao Giova. Breccere. Avanti Roberto. Ho provato a vedere se passavo l'altra sorella vicino. Ci vogliono 2,5 km per passare. E beh, se è un piano, non la passi. No? Perché lo credo, non la passi. Ciao. Ma se fosse parlato troppo avanti. Okay, ciao Robè. Sì, ciao, ben sentita. No, ho detto Antonio, l'ho fatto la prova, già lo sapevo. Era impossibile a parlare sopra quando stavi parlando tu, ma è impossibile, siete attaccati. Come fai a superare? Sì, tu sei bella. Sì, come fai a superarci? Uno al primo, l'altro al terzo. Vabbè, dai. Faccio continuare che io vado a cambiare il pennolino al fratello più grande. Ehi, ok, ma mi ha dato qualcosa comunque, vedo che il segnale è più forte, la radio chiara, finalmente, dai. Perché con anche il bonbon arriva anche più forte, ma non ne ho voglia adesso. Va benissimo, dai, sei 9,920 spaccato, Antonello, vabbè, arriva a 9,60, lui usa le vitamine C, cosa usi tu, Antonello? L'FM500 sto usando, la vitamina C ce l'ho in terra, devo cambiare il tassista. Ma già 120 volte c'erano là con lo stesso, non è che non me le dica, infatti gli manca, avevo bruciato un finale, capito, e quindi pilota di meno, però già lì a stessa posizione 120 volte mi ha dato dei tondi. Ma adesso sei pulito o ti stai aiutando? No, sono pulito, veniamo, c'è la Giovanna, giù. Solo che tu c'hai l'antenna rispetto a Giovanna, lei c'ha un antennino, lei c'hai 40 da 9, quasi 9,50 sei tu, lei è 9,20. E lei c'ha l'antenna che non la pesca, messa nel perimetro orizzontale, nel terrazzino, figurati. Quando ho attaccato la canna da pesca dall'altra parte del terrazzino, cazzo, non volevo avvistare quell'antenna, tu immaginati il verde, che si vede da un chilometro, che parte dalla base del terrazzino di terrazzo di casa sua che arriva fino al tetto. Come l'ho vista immediatamente di tutti gli tra poco ho detto però che 5 minuti mi chiama il capocondomero. Infatti gli ha detto Giovanni, c'è una cosa piazzata, poi c'è un'antenna piazzata. Ma è troppo lunga, un'altra più corta devo cercare. Questa è brutta, mi ha detto, questa cosa verde. Ma Giovanna, quante watt sta uscendo? Giovanna è a 15. 15 watt? Ma l'apparato è da 15 watt l'apparato? Sì, il Comex 4000, sì, questo da 5, quasi 6, una cosa del genere. Fatti il conto per fare un discorso di antenna, perché conta l'antenna, lei ne ha 15, a fianco a te, tu ne hai 5, diciamo, 5 watt, e c'è l'antenna e c'hai 30 punti di segnale in più. Ai, che bello! Corari, dove sei tu? Buonasera Roberto! Ciao Antonio, malvagio! Ma che c'è? C'è anche Luca. No, è Antonio Bobbo. Sta usando l'apparecchio, certo è stato un canale. Allora 87, buonasera a tutti, buonasera, eccomi qua. Sì, altro lo sentito, ma mi è sembrato un altro segnale più piccolo, mi sembrava il segnale di Luca. Luca, tu sei? Forse era, mi sto sbagliando, allora, vai là tu. Dimmi, sono Luca. Lei che non dice la volta di Luca, tutto poi va, ma non ci riesce a fare. Già, lo so già. Ormai vi conosco dallo segnale, a te, Antonello e coso, no, non c'è da sbagliare. Lo so. Dai, fatto dovere, dai. Facciamo un pochettino di tempo che non vai. Aspetta, forse c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, che vuole entrare? Non capisco chi sei, prova a mettere qualcosa, non riesco a capire quello che stai dicendo. C'è la mezza QRM, Santiago sì, era qua, ma non c'è niente da fare, non riesco a tirarti fuori, dai. Vai di nuovo, Antonio. Sì, questa brutta pagazione, senz'altro. Io non lo sento per niente. Siamo vicino, abbiamo ancora due diverse di eccezione. Tu sei aperto per la zona del centro Sardegna, la prendi in pieno, la prendi dalla parte di Carbonati. Io invece sono aperto per la zona di Sassari, Monteoro, Pedanieda, Foro Torres, quello è più in pieno. Sono morto proprio, guarda, da quando ho costruito queste palazzine blu. Santiago 5, Santiago 6, a volte quando attacca il coso sento Santiago 9, ma poche volte, capito? Avessi abitato subito proprio nella collina che c'è qua sopra, guai, capito? Lì appena all'interno, parlami, a metà strada, dove c'è quei cancelli fatti in legno, se ti metti lì a abitare con una mantola lì, sono morti tutti, perché c'è aperto tutta la zona di Santa Mona, Sorso, Castelsaldo, eccetera eccetera, tu c'hai anche la zona di Anghero, tutto abito hai, perché è il punto più alto che c'è, ed è in mezzo, vicino dove c'è il serbatoio dell'acqua. Non lo so, dice piatti di lì, mio fratello abitava, cioè sabato io dell'acqua appena più avanti, stiamo parlando a Monte Bianchino o stai parlando vicino a te tu? No, ma proprio a Monte Bianchino, invece sabato io dell'acqua, lì il punto più alto che c'è. Mio fratello abita un po' più avanti, molto ben chi del serbatoio, dove c'è quell'allargamento, hai visto? C'è il serbatoio, l'allargamento scende di 20 metri dai, di altezza, di dislivello, lui domina tutto, lui si fa cadita, lui non ne ha fottuta, ma ci ha detto se ti piace un'antenna lì guai, sfascia il mondo, perché di lì domini, lui va del mare, tutto, Castelsaro, non c'è un ostacolo di lì, c'è una bella propagazione, c'è di segnale. E poi dove affiancate le visite, quelli che hai detto che un po' ti hanno chiuso, anche se ti piace un'antenna di lì sopra, dove c'è. Cioè, come si chiama? Il Conti, quei palazzi nuovi che hanno fatto, devi dire alle spalle. Sai cos'è il problema? Ti ho capito dove stai dicendo tu? Quel piccio di me, dove c'è palazzo, dove c'è il coso. È un casino, perché quei palazzi nuovi che hanno fatto di fronte a me, non ti fanno piazzare manco la targhetta per il medico, fanno piazzare, sono l'altro. Immaginati che razza di condomini che sono. Meno male non è venuto in mente di comprare lì a Mappo. Sono stato ma anche io non l'avrei mai piazzato lì, perché sono fiscali. Prima gente che all'autoressa che ho io, che è lì, avete visto la farmacia di Accado Felice che c'è. Ci sono i medici lì a primo piano, non mi fanno pensare manco la targhetta per dire solo adesiva, agganciata al muro. Quindi ogni volta che piove ne esce nella targhetta in terra. Non è così, no, Antonio, che poi esistono le leggi, esistono. Non è come tirati Ziniedi, no. Non so, tu immaginati, questo è il medico, che ne sono quattro medici lì a primo piano. Beh, gli hanno detto che la metti adesiva la targhetta, buchi lì, facciata non è facile, detto, per me, Sassolini, anche la Sini, tanto per dire. Per mettere la targhetta per far vedere che dice il medico, non gliene fanno piazzare. Tu non c'è niente da fare. Ma le fare non ce le mette la boccata, ma guarda che era per piazzare. Perché lui deve esercitare lì, quindi non deve rompere le scatole. Lo non so altro, ma purtroppo è così quella pazzina. Me l'ha detto lei, dice, se mi lavo a scala, ho detto, stavo con lui due secondi, ho detto, ripeto, due tassini da sé, che però si vede lui, dice, lei dice, non vogliono per niente, dice, io vorrei farlo, ma immediatamente dice, mi dicono cosa. Se no, dice, avrei messo due tassini da sé di quelli figli, e ha detto, tanto per pensare una targhetta, anche uno solo, tanto per dire. Comunque non ne fanno fare nulla, secondo me è così, capocomunico, ha giocato, poi ha detto come ho detto io, ha detto, è la peggio di come sarei tu adesso, adesso non va male, è cambiato capocomunico, speriamo che sia più tranquillo questo, che sia più, cioè, più gestibile. Immaginati, quando siamo l'ultima, quando ho visto il bar che c'è sotto, che si è allargato, no? L'avvocato ancora dice, voglio fare, dice, una festa, dice, una di queste sere, facciamo, offro io delle pane, salsicce, cose del genere, le bibite, dice, però vengono le tarbate, le comprano le tarbate. E così ha fatto, ha chiuso la strada, ha chiesto permesso al comune, da una parte all'altra, e abbiamo abbasso. C'era un complessino, c'era che suonava musica normale, poi musica statalese. Beh, alle 10, alle 11 e qualche cosa, piglia questa e chiama il capocondomino e non è sceso giù lui, ha preso una tira, una cortina tirata, ha pigliato un momentino la testa. Ha aiuto un gol, ha detto, questo lo ha detto, ti permette di fare una cosa genere, tu per lui, ti ha dato un pezzaio, ha detto, alla tira, ha pigliato un mamma in pieno, ha detto, se avessi preso a me, sei tranquillo, ti avrei tirato, fatto uscire, ha detto, da Giampiero un bastone, ti avrei tirato a fianchi, ha detto. Lui ha chiesto il permesso, quindi fino a mezzanotte lui può stare qua, gli ho detto. Oh no, adesso basta, lui qui deve chiudere, deve mandare via tutti, perché c'è una signora a primo piano che vuole dormire, che non sopporta la musica. Se non sopporta la musica, vai, si piglia un nero, gli ho detto. Sì, ma non ti dà diritto di tirare la roba, non ti dà diritto, avanti Robè. Vabbè, ma secondo dove vai? Se ci sono regolamenti condominiali e tu firmi il regolamento, hai accesso il regolamento condominiale, tu ti vuoi pure l'avvocato che vuoi, quello che ti piace. Se c'è scritto che tu non puoi mettere parabole, che non puoi mettere antenne, devi usare l'antenna condominiale, eccetera, eccetera, e tu accetti quel regolamento, non c'è niente da fare. Ma io poi c'è un'altra legge, perché se lì ci capita un radioamatore e poi ti denuncia. E come ce ne può mettere le antenne, roba e poi? Di dizzini come Tibone, però non è così, no, perché quello deve esercitare. Non è così, no, poi vedi che ne paghi tutte le conseguenze, non è esattamente così la situazione. Ah, guarda che diritti che c'ha un CB, adesso vabbè non esiste più la concessione, ma prima parliamo, c'ha gli stessi diritti un radioamatore, non c'entra niente, se ci esiste il regolamento dice tu nel tetto non puoi mettere niente perché questa è un'area condominiale e non è di tua pertinenza e tu firmi proprio che non hai, cioè quando acquisti una casa c'è scritto nel contratto che non avrai accesso al coso per nessun motivo eccetera eccetera, se ti danno solo accesso per utilizzare quelle cose che vuoi tu, cioè che vogliono loro, una volta che hai firmato non può essere pure il Presidente della Repubblica, perché il radioamatore ha gli stessi diritti che può avere una qualsiasi attività, anche la DBSUD, un'attività di investigazione, quelli che fanno sorveglianza di cose, o le stesse cose, la stessa cosa c'ha il CB e basta, non cambia nulla. Certo, se non c'è scritto da nessuna parte nessuno ti può vietare di metterti un'antenna, ma anche al CB oltre che al radioamatore. Eppure dico che non è così, che io mi ero informato una volta e la cosa non è guzzino, che cazzo non vuoi pagare i dazi, cioè soprattutto che lo fa professionalmente, debole la faccia in culo, puoi mai firmare certe cose, leggerli bene i contratti, perché secondo se c'è una dicitura che a me non mi va bene, io non te ne firmo, ti vuoi pure ammazzare voi. Sì, ma allora non te ne compri di casa, allora ti dicono quando vengono a cosa per dire se c'è esiste un regolamento che dicono in questo caseggiato non si possono mettere facciata a parabole. Ma io mi voglio vedere in altre accuse, c'è scritto nel regolamento, tu hai acquistato una casa ed è espressamente vietato mettere, parliamo parabola, che la parabola è la cosa più meno evidente. Poi ci sono altri vincoli di altre cose, perché c'è in certe zone non te lo permette il vincolo della tutela dei beni ambientali, perché se c'è un palazzo storico non è che ti puoi munire una cosa, una parabola in vetrina, no? Infatti in molti paesi, in certe zone dove ci sono delle ville storiche, tutta la sovrintendenza non ti permette in nessun modo di metterci niente, allora devono trovare sistemi per mimetizzarle, le antenne eccetera. Però se tu prendi una casa e nel regolamento c'è scritto, quando vai a acquistare c'è scritto che non si possono utilizzare, mettere delle accessori o qualunque cosa, tu dici se ti va bene la firmi, se no non te ne compareggi. Io non te ne firmo ma me la compareggi, un dia roba problema, cioè ma cazzo, ma uno deve essere sempre proibito di fare quello che vuole, non ho capito. Non so, io non te ne compro nemmeno se tu mi dici così la casa, dico vattene a quel paese, io non te ne compro casa, oltretutto, però io non voglio le imposizioni, perché le imposizioni non vanno bene, le imposizioni, ma chi sei tu per dire quello che io devo fare? Ti innandi, perché poi dopo le quelle, dopo le cose legali cominciano altre cose, mi incominciano. E se cominciano i miei sistemi, vedi che un po' di gente è parte dal palazzo. Adesso io ti faccio un altro discorso, scusa Antone, io ho una palazzina, abitiamo tutti nel palazzo, diciamo, il palazzo, quello che c'è su, vicino a Antonello, quella palazzina nuova, ci sono 5 piani, l'ultimo piano sono proprietario io e c'è l'attico, con il bellissimo tutto il terrazzo grande in giro, mio, con tutto il terrazzo, e tu vieni a dirmi, io mi voglio mettere l'antenna, tu a casa mia non è buona l'antenna, mi puoi mettere tutte le regole che vuoi, io sopra il tetto, quello è mio, calpestato da me, non ci voglio fare accedere a nessuno, tu puoi punire l'avvocato che ti piace, perché qualunque cosa ovviamente non deve creare disagio o interferenza alla persona, questo che dice la legge. Poi qua c'è radioamatore, CB, cosa ti posso dire, se tu mi crei disagio non la puoi mettere, a parte il regolamento condominiale. Infatti già no, cioè il racconto è roba doia, è diverso, già è roba doia, ma c'è la roba di tutti, io vorrei essere libero, se no a casa non ti dico un pareggio, cioè ti mando proprio a chi su paese ti mando, io proprio non te ne compro, prima io sento le condizioni, se mi dici ma tu dico una cosa, vuol di dire non ne voglio, dico così, non ne voglio, io non devo essere messo in posizioni da nessuno, io voglio fare quello che voglio. Sì, ma se c'è un terreno libero condominiale nessuno ti può dire niente, però se tu stiamo parlando di una palazzina come quella lì, dove c'è la mansarda, l'attico sopra, che è tutto di proprietà di un unico proprietario, dico tu sopra di me non me ne metti di roba, perché per entrare lì devi chiedere l'accesso a me, ma che magari non siete in amicizia, diciamo, ma lo fai mettere l'altra. Per cui se un radioamatore deve farsi una stazione prima di acquistare l'appartamento, si deve informare bene cosa deve fare. No, non ci sono problemi, vai Antone. Io quando papà ha comprato qua, sono stato il primo a venire ad abitare, a me l'installazione delle gas me l'ha fatta il geometra che costruito il palazzo, capita di orari. Dice Antonelli, dice, queste sono le gaffe, quando noi togliamo, dice, la gru, sali sopra, ti installi l'antenna del palacchino e ti scende il cavo, dice, giù al primo piano, perché mamma prima ha comprato giù, ha comprato, dopo 6-7 mesi ancora, io ho comprato la mansarda, infatti l'avevo affittata, hai capito? E infatti i cavi ce ne vanno lì, poi una volta sono subentrati tutti i condomini, cose del genere, è entrato questo condomino qua che è entrato e cambiare, tu dice questi cavi non vanno bene, c'è cosa del genere, non sai dove dovresti spingere, che cazzo è tutto il tuo cervello, io dico il capito, se tu vuoi mettere una cavaletta, se vuoi mettere una cavaletta, poi invece ha cambiato tutto, che cosa cazzo l'avete a fare la cavaletta? C'è la mansarda, gli ho detto, a un certo punto ho detto male, una volta che c'è mansarda e mansarda mi è stato tutto lì, infatti sono mansarda. Però ho speso allora, io ti parlo, 150 metri di cavo dovuto metterci, ne è 213, ho fatto tre calate, c'avevo il diploma dei 45 metri, allora usavano i 45 metri. La manta da uno e poi ho installato un'altra antenna, adesso non mi ricordo cosa un'altra la per VHF, mi sembravano tre cavi, c'è dentro due, vabbè, di mirate sono salito sopra e ho fatto così, però quando c'era lui un rompimento di balle, è capito, del condominio, e mi sta subendo il televisore, quello e quell'altro, allora ho detto, ascolta, cambiatevi la centrale, no, la centrale non c'è niente, c'è anche lo tuo. Ah, è detto così, allora ho fatto quella via, perché c'è la centrale. Ho preso la giubbuca maletta, ho attaccato il lineare, c'è l'acqua, quella 600, se c'è la centrale adesso se l'hanno cambiata. Allora, Riccio. Questo è mio nipotino, Giulio. Buonasera. Certo, certo, è la qui. Quanti anni c'ha questo bambino, piccolino? Giulio, tu sa... Eia, c'ha pochi anni. Sì. Ma sta facendo la voce da piccolino o è piccolo veramente? Io ci sono. Ah, no, è piccolo, è piccolo. Ma ho capito. No, io dove non mi prendo la casa me la prenderei in un posto dove una villetta mia, dove io posso fare quello che io voglio, dovendola comprare. Non voglio imposizioni da nessuno, né tantomeno dal palazzo da nessuno, perché io le imposizioni a me non mi piacciono. No, te lo dico già che io comincio a cadere a mari, cioè non voglio imposizioni da nessuno. Dovendola comprare, fare l'acquisto, me la comprerei come dico io. Sì, ma tu se vivi in un condominio e c'è la terrazza di proprietà di un inquilino, si è comprato tutta la terrazza, ti puoi girare e rigirare, dice no, tu in casa mia non ne metti di antenna. Se è una cosa terreno calpestabile dal condominio, a quel punto nessuno ti potrebbe dire niente, perché esistono delle leggi di accesso, di libero accesso. Però se tu c'hai tutto il coso, il piano calpestabile del terrazzo, tipo casa mia, dai, che il proprietario paga di tutto, dice no, tu a casa mia non è buona l'antenna. No, non voglio essere messo con questi soprusi, io voglio essere libero, voglio essere, comprandomi la casa farei così, me la compra a conto mio, faccio quello che voglio io, e se qualcuno viene a rompermi le palle tiro il bastone a testa, non ci metto su due secondi, mi te lo dico io. Voglio essere libero di fare quello che voglio io. Va bene, a casa tua, ma se tu sei in un condominio e c'è una cosa, un attico sopra, tu puoi essere padrone dell'appartamento, però tu nell'attico il padrone ti vieta l'accesso, tu puoi fare su che ti piace, tutto quello che ti piace, sì, l'unica cosa che può permettere è di mettere l'antenna condominiale, nel senso per tutti, per la televisione, anziché mettere un'antenna per ognuno, ti dice mettiamo un'antenna centralizzata, e ce la usufruisce anche lui, e basta. Però se tu c'hai l'attico, tu ti dice tu qua non ci sali, tu puoi essere radioamatore, presidente della Repubblica, qualunque cosa te lo via, devi chiedere sempre l'autorizzazione al proprietario. Che avanti? Essere. È scappato. Avete parlato in due. Sei rientrata, Giovanni? Sì, stavo ascoltando, dice mio nipote voleva parlare. Ma poi ancora ci sei? Sì, sono qua. Purtroppo qua è la tecnica cosa. L'unica cosa che si può fare è, guarda, a tu è così. O ti compri l'attico, o ti prendi un attico, te lo compri in contanti. A meno che non ti pigli l'attico in affitto, come sei adesso. Allora puoi pensare di quello che ti pare ti piace. Però se sei in un condominio e tu abiti al primo piano e devi passare i cavi, l'aga per lì, che ne ha passato tante, io in realtà qualcosa. radio, guarda, se no questa radio l'ha rotto già il capo del baracchino giù. Questo può dare un senso a casa sua. Quindi adesso sto cercando di scogitare di se riesco a trovare il tubo, cioè dal tubo del fiato dello scarico del bagno, col tubo di plastica che sta adesso sopra il tetto. Questo farò scendere in casa sua fino al suo piano, sono la bellezza, sono 4 per 3, 12, 20, mi sembra almeno l'attenzione di mettere il cavo, per farlo scendere a casa sua direttamente, facendo uscire dal bagno, e capito, qui direttamente in camera da letto. Però l'unica cosa che posso fare è eliminare il cavo della parabola e passarci il cavo del C58 all'interno dei tubi che scendono in casa di Giovanni. Ormai il cavo scende direttamente lì, direttamente dritto, hai capito? L'unica cosa che posso fare è quello, però da dove abito io a giù devo fare un giro strano, hai capito? Per farlo arrivare dove c'è il partitore, deve stare giù in casa sua. Capa, no. Oh, qua non ho problemi mia. E gli ho detto al mio padrone di casa, non mi danno addito, mettila. Io che per un cernaggio sono uscito, non ho fatto il condizionatore, mi sta già obiettato a rubare. E ha già fatto, vai. Vabbè. Da lucernaio finché cresci. A me mi sono capitato invece di lucernaio e con la pancia che ho mi sono rimasto incastrato. Hai capito? Quindi sì, dura di tu. Perché c'ho quel lucernaio che si apre neanche a metà di mansa. Ma non mai c'ho il terrazzo. Sono salito da lì. Però se passo da lucernaio come ho capitato una volta per installare una parabola di un condominio che sarebbe vecchio, ho detto vai, è andata a mezzo che ho detto fa la cosa, ho detto passaci tu che sei magro, gli ho detto, che sali sul palpetto, ti dico io come sale, dalla scala, e così l'ho fatto pensare la parabola. Allora ci faccio bene, incredibile ma vero, adesso con più grosso indemne. Avanti, Robè. Sì, a te tocca di lucernare, un amico mio, amico da uno che conosco, che questo è suonato la piazza delle parabole, ha posto i tasselli normali, una parabola grossa attaccata a parete, ne fa da parabola sopra lucernario, meno male non c'era nessuno, ce l'ha ammazzata tu, è una parabola grossa. Ma chi ti ha già fissato da lei, non ti preoccupare. Manco un gannone nella rampa. Lo so, grazie a Dio noi uragani e coso e tombe d'aria sono rare, dai. Negli Stati Uniti ci capita, ne vedi macchine volando, camioncini capottati o sollevati, noi massimo qualche volta può arrivare qualche traffico a 100-120 km orari, ma dentro la città è raro, qua in campagna, in posti aperti, ti riesce a entrare. Però vai negli Stati Uniti, in quei paesi lì dove ci sono i tornado. Te lo ricordi quando ha fatto quel coso forte che ne ha qualcuno alle punte ne ha lampato tutto? A me qua non mi ha fatto nulla. Ma neanche a me, grazie a Dio, perché c'è passata molto lontano. Domanda all'amico nostro, radioamatore, a vedere che danni gli ha fatto. Qua tirava però, eh. E ha detto, mamma mia, che antenna si dronca in due, e lui c'è rimasto in chiave. Ma l'antenna non ha superficie di vento perché è un palo dritto, ma quando c'è quelle antenne orizzontali grandi, i contraccolpi, ne va di poco di danno. A parte che il peso proprio dell'antenna è già al limite molte volte. E poi quando arrivano le volate e i contraccolpi la spezzi in due o te ne scende traliccio, non è vero i tralicci buttati in giù, ma non tralicetti piccoli, tralicetti roba fatta bene. Oh, però signori, io adesso qua mi sto sciogliendo, non c'ho manco il ventilatore in questa stanza, mi sposto dall'altra parte, dai, ci sentiamo un altro momento, ciao Antonello, ciao Antonio, ciao Giovanna e tutti gli eventuali amici sul canale 10, io faccio corretti, ciao di nuovo a tutti. Capa, ciao Robè, ce ne risentiamo, avanti Antonello. Cazzo, di vedi. Capa, ciao Robè, ce ne risentiamo, ciao. Comunque tu una volta è capitato un vento forte, io ti parlo di tanti anni fa, automatica con Gianni Bravo 2, avevo comprato la Motova 5, appena mi ha dato, stavo uscendo giù alla GBC, ho preso un paio di scopi con gli altri, mi serve un paio grosso, mi sono per casa, sì ci trovo io, poi ci devo mettere una Motova sopra, non ci devo mettere un'antenna lì, una gampe, ah quello, già dura. Viene Gianni, eravamo io, Gianni Bravo 2, mettiamo il palo, tre scopico, metto la moto, ma 5 sopra e gli ho detto a Gianni, già, lasciamo detto, adesso, 3 metri alta e basta, detto, non di più, e tu poi al limite, detto, domenica quando sale, gli ho detto, adesso dobbiamo sedere, dobbiamo tirarci, gli ho detto, e tu vabbè, facciamo così. Dopo due giorni arriva questo vento forte, cazzo, del genere. Cazzo, io no, non è possibile. Ho visto l'antenna di cosa, di Giacomo Fantoma, se tu non l'hai conosciuto. Abitavo proprio di fronte a me, visto quelle villette a fianco a casa mia, quelle basse. Allora la diamo nuova, piazzata, cazzo. Ha preso, ha cominciato a oscillare, no, no. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, questa è la stazione in terra. A un certo punto ho visto in terra, tac, bigiarda. Da sua letto, non l'ha detto, evidentemente avevo messo un palo nuovo, fine. Dopo 4 ore 20 minuti, cazzo, ero... non più un cazzo. Sono strano, non sto uscendo. Contro lo soppartetto c'avevo il palo piegato e i radiali meno male si sono salvati, tutti e 5. E lo studio toccava sotto al petto, toccava. Infatti mi ha piegato anche l'antenna mia. Poi ha fatto anche la nota con la tragedia. A volte mi ricordo aveva buttato giù tutto. E ho buttato giù. Da quel giorno ha detto no, non mi fido più a fare una cosa del genere. Preso, palo d'acqua, 3 metri, non me ne frega niente di salire 6 metri, a me non me ne frega niente, è venuto dormire tranquillo, ma no. 3 metri di palo giusto, d'acqua, non te ne scoppi con l'acqua, ci ho messo la matta d'attuvo, no, non me ne frega nulla di uscire fuori, non riuscire, come esco, basta che dormo la notte. Ah, appunto per quello. Ecco l'antenna di cosa? Io non l'ho vista ancora. Quell'antenna di tua sorella, come l'hai messa? Allora c'è l'antenna nel perimetro del terrazzino orizzontale. L'ho messa. E già esce, ho visto. Esce bene. Santiago Roca arriva qua. Figurati, c'è l'orizzontale, che porta nel terrazzino, lungo il perimetro della chiusura del terrazzino, che in plastica. La prima volta che l'ho installata l'ho trovata con la canola a pesca dall'altra parte, ma arrivavo fino al tempo, che mi ha trovato il condominio, mi ha detto questa antenna brutta, anche senti che cosa c'è, abbassano di notte, dice, cioè, abbassano di giorno e di notte dice la sollevi, ma che cazzo, detto, come cambia? A un certo punto ho detto scusa, cambio il sistema, a questo mi metto da dietro, la metto davanti, a me non ho detto certo cosa state, detto va bene, ci parla detto Giovanni, infatti così ho fatto. La canola pesca c'è conservata ancora anche all'altro, cioè figurati, quella da 7 metri. Ma c'è qualcuno che voleva entrare? Non lo so, qualcuno vuole entrare. Vabbè, adesso ti lascio un attimo, che vado a portare il cane a fare la pupù, scendo la mobilità, poi ci andiamo fra poco. Ma bene arrivo a casa di tua sorella, tu che mi hai sentito? E dove si arriva il segnale 9, a me arrivi 9.25 qui, su questo baracchino, dove si arriva di 9, non so se ha finito di lavare Giampiero. Ci faccio sì. Sì, ha sentito il mio nome? Antonio, ti stiamo chiedendo quanto lo ascolti la casa tua. Il passaggio? 3 prova. Santiago 7, Radio 4. Radio 4 addirittura? Sì, sono un po' troppo metallico. Metallico? Metallico mi senti Antonè? No, è il microfono di produttori alti, insomma. Che vuoto? Ah, cosa? Che vuoto è stato? Non credo. Appena. Ah, che cosa sento qua là? È chiaro brido, la calcosa. Però mi chiedo, non c'è bacco, con quello che c'era di buio. Caffa, con le 2060. Ok, Antonio, ti lascio andare, non c'è problema, vai. Sì, ha avuto la bombetta e sono entrato. Allora, sentiamo fra poco. Tempo di fare cagare e pisciare il cane. E niente. Antonello! Sì, ha. Facciamo le 9? Sì, ma devi buttare la tua bombetta adesso. Sì, ma sto facendo la pasta, quindi devo proprio volentare la pasta e dalla bambini. Fai così, allora, là. Ti aspetto, là. Grazie, caruccio. Va bene, non c'è problema, no. Scappa. Quindi io sono quanto? Piano piano, là, ma pure lei può uscire con l'apparecchio. Io ho provato un giorno, ho detto, si sta detto baracchino, a me l'ho detto, c'è caldo. A me l'ho detto, la sera, ho detto, stai un po' fresco, ti diverti un pochettino, fino alle 10, mezzo, mezzanotte, quello che ti fa compagnia, se sei tranquilla. Scappa, ammalo. Io me la ascolta. C'è un apparato che ho comprato, quello monogattomo, quello della macchina, non l'ho mai usato. Però se no due o tre volte a casa, con il microfono con l'eco, già lo conosci, il Thomas. Ho detto, usciamo in macchina, ci facciamo un giro, così lo proviamo un po'. Perché peccato, non lo sto usando, ho detto, già con l'apparecchio, detto, mi sei guasta, c'è l'attaccaccio di sigari, cosa faccio? Taglio l'attaccaccio di sigari per metterlo in casa, cosa mi da fruttito? C'ho cioè, l'FM500S, c'è cioè, il 2009, e ho detto, guarda, ma usa, c'è tutto. Io avevo pagato, costava 60, per il comodi 80 euro la giubbagata. Hai capito? Mi ha fatto fare 22 euro di cosa? Per poterlo farmi arrivare a casa, in scatolato e tutto, l'ha ritratto da Amazon, giocando. Imbarrado? Sì, mi, l'ha aperto lì il pacco. Tu devi vedere, 22 euro mi è costato. Mi costava 60. E invece 80 su Amazon, capito? Era un pacco grande, mi sembrava il pacco del coso, del cinese. Già le conosco quegli apparecchi già, ma chi ce l'ha piazzato? No, sta dando un coso adesso, come 4.000, quello mio, ma quando quello lei, io c'ho il suo a casa, c'ho il 3.900 suo. Siamo così con il 4.000, già l'hai visto a casa, quello alluminio. Io ho comprato quello della Fayette Zeus con quel colore lì. Sono belli quegli apparati, sono veramente belli, guarda. L'estetica peccato ti piace, non è che ti piaccia il colore, capito? Perché cioè, è lo stesso apparato. Se tu mi cambi il frontalino, cambia totalmente, è un'altra cosa. Sembra di. È come cambiare quello che posso dire, la mansarda, la essere bianca gli fa un bel colore. E gli metti per dire, no, questi pavimenti bianchi gli metti il parquet. Cambia totalmente, capito come estetica. Ciao, cappa, cappa, gozzigia. Ho comprato così, di quel colore lì, il frontalino, perché mi piaceva più di tutti, invece il quello nero. Di a pompa, e andare a vedere. Un tornato, 120 canali, 70 euro, su Facebook, di un allevatore. Chiappa. Nero era, mi figurati, nero. quindi ci dovete canali. E avete stato uno di quelli modificati, praticare. Noi avete 84 canali, modificato 120, con la scheda lento e i pulsanti dietro. Io ci avevo, come si dice, c'avevo un quello, c'avevo un Intech, c'avevo. E Intech è quello che stava dando quello io, Intech, trovavo, però l'ha scritto 24S, ha scritto solo 120 canali, capito? Però l'unico 120 canali che esiste era Intech nero e il 34, capito? Con la modifica 120, perché c'è la scheda dentro, all'interno, con i pulsantini dietro. Se non era la bolla di Bacchisio, l'apparato uguale. Ma già ho due apparecchi. Sì, anche mi ha avuto apparecchio, ho avuto 23 canali, faccio 123. Il primo compatto è quello, cazzo. Un lavandino sembrava, cazzo, mi strappa, cazzo, non voleva neanche usato. Ma cosa, la macchina andava bene, ma con l'antenna esterna qua. Cioè, avevo un problema dove abitavo. Allora, in 48.000 eravamo 3 CB.